Nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Non possiamo sapere ed è difficile immaginare quali sarebbero i valori, i tratti della personalità e la cultura di una società non gerarchica. Ma per immaginarlo bisogna pensare che sia possibile, che è possibile. Christine Delphi. Ciao a tutte, ciao a tutti. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata, questa trasmissione, alla violenza sulle donne nella stagione neoliberista. E abbiamo deciso di farlo partendo dallo stupro di Via Teano e passando attraverso le dichiarazioni di Christine Lagarde e alla nomina di una prefetta qui a Roma. L'abbiamo intitolata La violenza sulle donne nella stagione neoliberista e partendo dallo stupro di Via Teano arriviamo a diciamo situazioni così diverse come Christine Lagarde che è a capo del Fondo Monetario Internazionale oppure la prefetta di Roma, per un motivo particolare, perché il neoliberismo, che è la configurazione attuale del capitalismo, si è legato al patriarcato con una modalità, insomma, in un modo e con delle specificità particolari. Cioè, il neoliberismo, per scelta ideologica, ha rotto il patto sociale con le classi subalterne. È stata una scelta di classe, una scelta di parte, unilaterale, e quindi ha la necessità di operare un controllo sociale serrato per prevenire, combattere, reprimere le possibili rivolte o anche solamente il malcontento, l'insoddisfazione serpeggiante o anche solamente la difficoltà di vita, no? Quindi a questo scopo che cosa usa? Che è un connotato proprio specifico di questo momento storico. Usa tutti quelli che sono gli aspetti sensibili della società, cioè i desideri, le rivendicazioni sociali, tutto quello che può tornargli utile. Infatti noi da diverso tempo abbiamo definito questa società la società dell'antirazzismo razzista, dell'antisessismo sessista, dell'antifascismo fascista, e non ci stancheremo mai di dirlo. E la strumentalizzazione della violenza sulle donne è proprio uno degli aspetti che caratterizzano queste modalità. Di fatto la violenza sulle donne, nella sua specificità, viene usata per tutta una serie di obiettivi, anche molto diversi fra di loro, ma che sono molto importanti e molto funzionali a questo modello che il neoliberismo vuole assolutamente imporre, sta tentando di imporre. Allora, una delle principali modalità di sfruttamento della violenza sulle donne, di strumentalizzazione della violenza sulle donne, è quella per far passare leggi securitarie, il controllo, militarizzazione territoriale e divisione degli oppressi e delle oppresse, no? Un'altra è, per esempio, far accettare il concetto di legalità, far passare il concetto di legalità, su cui questo tipo di impostazione politica spinge tantissimo. Perché? Perché il concetto di legalità colpevolizza tutti i subalterni, fa dimenticare che cos'è una legge e colpevolizza tutte le classi oppresse. E poi la violenza sulle donne è utile anche, visto il contesto e visti questi primi due passaggi, e anche per affossare, per esempio, avversari politici, no? Per fare la guerra a paesi asimmetrici. Noi abbiamo visto come i diritti umani, la violenza sulle donne, l'oppressione delle donne vengano usate continuamente per far passare come incivili dei paesi che vengono considerati invece da aggredire, e per far passare come civile la nostra cosiddetta democrazia, fra virgolette, no? Che è uno strumento, questo di appellarsi alla tutela delle donne insieme al pinkwashing, che mi pare che sia una delle modalità più usate: pinkwashing, diritti umani e tutela delle donne. Proprio è uno strumento che è talmente ormai, non lo so, manifesto, che dovrebbe essere, non dovrebbe più trovare nessun tipo di appoggio. Invece non è proprio così. A cap with a mournful eye, high above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Bum, bum, bum. Told you a calf to be, why don't you have to fly with, like the swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Bum, bum, bum, bum. Donna, donna, donna. Diciamo, strumentalizzare la violenza sulle donne serve al sistema neoliberista, che poi ricordiamoci sempre che è il PD, anche questo noi non ci stancheremo mai di dirlo, che naturalizza il neoliberismo in questo paese. Perché le destre sono come sempre reazionarie, hanno la loro ideologia e portano avanti questa ideologia da sempre. Ma chi si è fatto carico della naturalizzazione del neoliberismo qui da noi è il PD, con un lessico e degli strumenti che gli vengono dal bagaglio di sinistra, è riuscito e riesce a far passare ancora, purtroppo, tutta una serie di attacchi, le cosiddette riforme, che hanno destabilizzato assolutamente tutto quello che era stato costruito e conquistato finora. Quindi il neoliberismo qui da noi ha prima di tutto un nome e un cognome. P di nome e D di cognome. Allora, la strumentalizzazione della violenza sulle donne permette appunto al neoliberismo anche di riportare tutte le istanze, i desideri, le rivendicazioni nell'alveo dello Stato, cioè di riprenderle sotto la sua tutela. E questo come lo fa? Lo mette in atto con dei passaggi che anche questi sono standard, che ormai dovrebbero essere riconoscibilissimi, no? Come uno è l'uso delle donne stesse, quelle che attraverso l'emancipazione si sono fatte parte integrante e supportano questo sistema, a cominciare dalle donne di potere, che si presentano come femministe. Laura Boldrini strilla in Parlamento: voi mi dovete chiamare la presidente. Io ci scherzo spesso sopra e dico: no, Laura Boldrini in quel contesto è il presidente, perché nessuno più di lei in quel momento incarna il patriarcato. C'est toujours mieux que lorsque l'inverse gronde. Les gens me regardent de haut à force de me voir dehors. Je crains l'arrivée des flics parano même quand je dors. La liberté a un prix, la galère son mentor. Dès que la nuit tombe, les rues vides et la ville s'endort. Les fantômes errant dans ces rues sans bruit, qui m'enlacent et me laissent marcher sans but. Allora, abbiamo detto attraverso le donne che si prestano, attraverso la vittimizzazione e attraverso la delega. Questi sono tre strumenti fortissimi di uso della violenza sulle donne e di strumentalizzazione di questa violenza in funzione poi del controllo sociale. For love, climb a mountain if I had to, risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies, for my lover, everybody's eyes. I'm the fool. They they don't get any love from you. Quindi pensiamo che sia importantissimo rivedere e analizzare l'attuale situazione della violenza sulle donne in quest'ottica, cioè tenendo conto di tutto quello che abbiamo detto finora. Perché? Perché per esempio quella che era l'impostazione che abbiamo avuto noi, mi ci metto io anche perché ho attraversato quegli anni, no? Negli anni 70, che era stata la scoperta grandissima e la consapevolezza che noi come donne avevamo un denominatore comune, tutte, no? E potevamo essere definite come classe, tra virgolette, seppure in maniera anomala rispetto ai canoni marxisti, però potevamo essere definite un insieme di donne, no? L'insieme donne. Tant'è vero che è famosissimo di quegli anni l'Anneme Principale di Christine Delphi, in cui lei parla dell'insieme donne praticamente come se fosse una classe che si riconosce nell'oppressione che subisce e che quindi riconosce un oppressore, no? E in questo riconoscimento dell'oppressore si definisce come insieme che lotta. Allora, rispetto a questa impostazione sono cambiate delle cose perché adesso il patriarcato si muove in pratica su due binari. Da una parte ci sono le donne di potere e quelle che si sono vendute in cambio della promozione personale al sistema, cioè attraverso l'emancipazione loro rivendicano la posizione nella classe e intendono difendere questa posizione, no? Poi vedremo, ho parlato di Laura Boldrini come un esempio, però Christine Lagarde, la prefetta che ci sarà, che verrà qua da noi. E però si ricordino sempre che sono sempre sotto verifica, nel senso che il patriarcato c'è sempre e non sono proprio non è quello che hanno in mano, non è proprio definitivo. Questa è un consiglio spassionato, un suggerimento di attenzione. Non ce ne importa niente, però è così. Parallelamente c'è un altro percorso, che è un altro percorso patriarcale, quindi ci sono questi due binari, che è quello delle donne tutte, invece, che sono ancora più oppresse per la situazione sociale, economica, eccetera, e anche perché vengono vittimizzate, sono state spinte alla delega, quindi sono sotto tutela e compagnia bella, e vengono ancora più oppresse dal fatto che ci sono queste donne che rappresentano un insieme emancipato di riferimento e invece permettono l'oppressione, portano avanti le politiche neoliberiste in prima persona e permettono l'oppressione su tutte le altre donne, che vengono invece ricacciate nei ruoli classici, quelli di riproduzione, quelli di lavoro, di cura, e comunque se servono vengono messe al lavoro col doppio lavoro, se non servono vengono rigettate in famiglia, no? Quindi oggi più che mai il femminismo è attraversato dalla classe. Ritorniamo in voce e per affrontare questa trasmissione sulla violenza contro le donne, come si diceva in apertura, cominciamo da un fatto che è avvenuto pochi giorni fa, lo stupro di una ragazza, avvenuto in Via Teano il 6 maggio, uno stupro che si è consumato in questa zona verde in cui c'erano delle baracche già sgomberate l'anno scorso e poi evidentemente insomma reinstaurati, sì. E questo stupro appunto a cui poi ha fatto seguito anche un sequestro di questa ragazza per varie ore dentro una baracca, ragazza che poi è riuscita a scappare e che in questi giorni si è anche esposta pubblicamente su molti media, insomma mainstream, andando ospite in vari talk show. E dentro questa vicenda c'è anche da menzionare il fatto che il 14 si è svolta nei pressi di quella zona, quindi sempre al Prenestino, una manifestazione a cui hanno preso parte anche organizzazioni politiche ben note come Fratelli d'Italia e Casa Pound, a cui sia la ragazza che la famiglia della ragazza hanno espresso la loro gratitudine per essere scesi in piazza al loro fianco. Adesso, senza diciamo voler troppo rimarcare tutte le specificità di questo fatto e di questa violenza, ci sembrava, cioè chiaramente è indiscutibile la centralità di partire da qui per questo discorso, anche perché è emblematica del fatto che poi lo stupro e la violenza contro le donne è spesso al centro di un coacervo di interessi che poco c'entrano con il corpo della donna e con la violenza che noi subiamo, ma che appunto diventano il pretesto per portare avanti, alimentare e coprire una serie appunto di interessi che su questa si innestano, per cui al centro di questa cioè intorno a questo, a questa violenza, a questo stupro, in realtà ci sono vari interessi. Da questi microfoni se ne è anche già parlato, e sicuramente un punto importante è quello del delirio securitario che si scatena dopo ogni stupro, quindi la strumentalizzazione, certo, di cui si parlava anche in apertura, della violenza contro le donne, che negli ultimi anni, anche appunto dal 2007, per fare degli esempi anche molto vicini, ha rappresentato un cavallo di battaglia per introdurre una serie di provvedimenti repressivi e di norme penali molto invasive, spesso e volentieri a danno anche di tutta la popolazione immigrata, di tutti gli immigrati. Ad esempio, appunto, lo stupro della Reggiani, che la stessa ragazza violentata a Via Teano ha riportato in questa manifestazione del 14, con cui si è risposto con il pacchetto sicurezza. Cioè, Alemanno ci ha vinto le elezioni su quella, su quell'episodio. Comunque era, magari non ci ha vinto le elezioni, però sì, insomma, però ha cavalcato, cavalcata parecchio, ed è stato introdotto il pacchetto sicurezza, che come tutti sappiamo ha anche introdotto il reato di clandestinità, quindi un aggravamento delle pene per tutte le persone che si ritrovano in questo paese senza documenti, anche senza aver fatto nulla, e la violenza contro le donne, quindi anche in questo, in questa precisa vicenda, è utilizzata a questi fini, perché gli stupratori sono stati identificati in due persone rom, e quindi, come sempre succede, diciamo, la caratterizzazione razziale, sì, o etnica dello stupratore è il titolo di giornale più sensazionalistico da poter sbattere in prima pagina. E quindi, no, come sempre, non si, cioè, se uno stupro lo compie un italiano, nessuno si preoccupa di caratterizzare quella persona come italiana. Se chiaramente lo stupro invece lo esercita e lo compie una persona straniera, allora si caratterizza in maniera razziale, e questo mi sembra un punto abbastanza chiaro da parte di tutte le femministe, cioè di opporsi a qualsiasi caratterizzazione razziale. La violenza maschile colpisce, diciamo, e si esercita indipendentemente, e si esercita dappertutto, e quindi si esercita anzi molto più nei contesti familiari, privati, quelli nella norma, spesso alle chiavi di casa, come spesso si dice, spesso alle chiavi di casa, no? Esatto. E quindi al di là della dovuta e cioè attenzione, solidarietà, vicinanza a tutte le donne che subiscono violenza tutti i giorni, fino alla violenza dello stupro, ma comunque la violenza sulle donne è quotidiana e attraversa tutti gli spazi, attraversa il vissuto di tutti i giorni. Quindi la nostra solidarietà a tutte le donne che e non si esplica, tra l'altro, scusami, neanche soltanto come violenza fisica, quella, diciamo, è un caso estremo, no? Come può essere lo stupro o addirittura l'uccisione, il femminicidio, però c'è tutta una violenza strutturale che ognuna di noi vive quotidianamente, che passa ad esempio anche per l'economia, le proprie sostanze, no? Si diceva prima, cioè in un momento di crisi tra virgolette economica, in cui è chiesto a tutti, è imposto di fare i sacrifici, non si capisce perché le donne se la dovrebbero invece passare meglio, no? Si riaffermano i ruoli proprio per ricondurre ricondurle al loro lavoro non retribuito, riproduttivo. Anche quella è violenza. Anche quella è violenza. No? La violenza attraversa tantissimi piani, e la consapevolezza di questa è una delle cose che il femminismo ha cercato sempre di rendere evidente, di tirarla fuori dal privato, di spingere anche le donne, per quanto possibile, nessuna può forzare la mano a nessuna, però la consapevolezza, la presa di coscienza di quanto sia invasiva e di quanto sia generalizzata la violenza sulle donne è già un grande passo avanti. Just don't you talk about me when I'm gone. Thank you. Dicevo all'inizio, questa vicenda è emblematica del fatto che appunto poi lo stupro, essendo un'arma che si usa sia in tempi di guerra che in tempi di pace. Noi ci abbiamo fatto un ciclo di tre trasmissioni che potete andare a trovare sul nostro blog, sul concetto di stupro, sull'uso dello stupro come arma da guerra e come arma di pace. E quindi se vi va di ripercorrere diversi da diverse angolature, analisi, questo... da diverse analisi, punti di vista, potete andarlo a ripescare. Appunto, però, essendo un'arma, attorno allo stupro, insomma, quando si dice strumentalizzazione della violenza contro le donne, è proprio il fatto appunto che si nasconde, si relega in secondo piano ciò che avviene appunto contro il corpo delle donne, contro l'autodeterminazione delle donne, e si cavalca per tutti gli altri interessi. E in questa vicenda, oltre a quello che abbiamo detto appunto del delirio securitario, come mi piace chiamarlo, che si scatena a seguito di questi episodi, ci sono anche altri interessi che semplicemente accenniamo, che sono sicuramente la campagna elettorale che vari gruppi fascisti stanno facendo, come appunto Casa Pound e Fratelli d'Italia, che la stanno chiaramente usando per mettere, certo, un piede in dei quartieri in cui non sono mai esistiti e in cui non hanno mai avuto un radicamento, e sfruttano questo. Però, per esempio, lo sfruttamento di questa, chiamiamola, possibilità fra virgolette, è dato a monte, cioè è dato dalle politiche securitarie, dalle politiche neoliberiste che mettono gli oppressi contro gli oppressi, perché gli oppressi contro gli oppressi, i cittadini cosiddetti legittimi contro quelli che non sono riconosciuti per tutta una serie di cose, sono utili a questo sistema, perché in questo modo sviano l'insoddisfazione, la disperazione, eccetera, la fanno scaricare su quello più povero, più oppresso. Sì, la cosiddetta guerra tra poveri, appunto, certo, no? Da cui poi si la proposta è: usciamo con una risposta autoritaria, usciamo, certo, a destra da questa. Certo, usciamo da questa con una risposta guerra autoritaria, però la responsabilità di questo, cioè la risposta fascista dichiarata come Casa Pound, è figlia delle politiche securitarie del PD. E infatti a questo riguardo mi sembra appunto che a me, come femminista, tra l'altro, che abita anche in quella zona, quello che più mi spaventa non è tanto il fascismo di Casa Pound, che chiaramente è anche una bella perdita di tempo, nel senso che distrae anche spesso dai propri percorsi, dalle proprie lotte, no? E ci costringe a confrontarci con questa compagine, certo, con cui sinceramente vorremmo non avere niente a che fare. Cioè, noi il confronto diretto non è quello che dovremmo innescare, ma quanto è prendere il nostro spazio affinché non si possano infilare, certo, in spazi lasciati vuoti. Esatto. E allora, da questo punto di vista, su questa vicenda c'è anche un altro fatto interessante, cioè che in quella zona verde, che è abbandonata tra virgolette, insomma, ci sono delle mire di speculazione edilizia. Adesso le notizie sono ancora molto fresche e poco confermate, ma pare che ci sia appunto questo progetto di edilizia agevolata per le forze dell'ordine. Allora, adesso a me, come femminista, mi spaventa molto di più questo progetto, vedere, perché avere sinceramente nel mio quartiere dei bei palazzi completamente abitati da uomini delle forze dell'ordine mi inquietano un poco. Le forze dell'ordine sono il problema, non sono la soluzione. Non sono mai la soluzione, cioè non sono mai la soluzione. Sono proprio il problema. Anzi, questa è proprio... è verso di loro che veniamo spinte, no? Cioè lo Stato e appunto si diceva il fascismo di Casa Pound mi spaventa poco, nel senso che appunto è così più uno specchietto per le allodole, per distrarti da un progetto molto più profondo e molto più inquietante, e che appunto all'interno del quale c'è anche questo fatto che in quanto donna ti viene detto devi delegare la tua difesa, la tua protezione, esatto, la tua liberazione alle guardie, vai a denunciare, no, come unico strumento possibile di reazione contro la violenza, è propagandata la delega alla denuncia e quindi alla mettersi nelle mani delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine invece che spesso e volentieri sono proprio attori materiali di stupro, cioè la lista è incredibilmente lunga, e c'è soltanto gli episodi più recenti, oltre a quello dell'Aquila di qualche anno fa nella stessa Roma, notizia un annetto e mezzo fa più o meno, quella ragazza che fu stuprata nella caserma del Quadraro a seguito di un furtarello per cui era stata presa, esatto, e invece pochi mesi fa quella ragazza molto giovane, proprio liceale, che a Piazza Le Clodio è stata stuprata da un militare che si è finto poliziotto in borghese. Sì, cioè, quindi proprio per accaparrarsi la sua fiducia, le ha fatto scattare la paura dicendole non puoi bere per strada, no? Quindi il controllo sociale è stato usato da entrambe le parti, sì. Quindi prima ti innesco la paura e poi quindi, certo. E a questo proposito poi è impossibile scindere la lotta contro la violenza sulle donne dalla lotta contro questo tipo di società, perché i meccanismi patriarcali sono assolutamente legati e compenetrati con il modello capitalista neoliberista. Non è che c'è una scissione, e non esiste neanche un problema culturale fra virgolette da risolvere, per cui se noi risolviamo il problema culturale poi i maschi e le femmine si vorranno bene, e se i maschi capiranno che fanno i cattivi e non devono fare i cattivi ma devono fare i buoni, così riusciremo a vivere felici e contenti. Siccome invece il modello patriarcale è un modello economico che è basato sulla gerarchia e sul possesso, come sulla gerarchia e sulla proprietà è impostata questa società, le due cose non sono scindibili. Non è che nel privato tu puoi scindere gerarchia e possesso e vale soltanto fuori da questo recinto qua, oppure quando io incontro una donna non vale la gerarchia e il possesso, vale solo quando, non lo so, è sul posto di lavoro e assume la configurazione di collega d'ufficio, allora lì vale la gerarchia e il possesso. Cioè il sociale e il privato non sono assolutamente scindibili, anzi uno rimanda all'altro e l'altro rimanda. Tant'è vero che stavamo dicendo proprio prima che siccome il patriarcato non è qualcosa di fumoso, no? Si parla del patriarcato e si dice ah sì è colpa del patriarcato, ah sì il patriarcato, ma è incarnato da qualcuno. Il patriarcato è qualcosa di concreto, il patriarcato è un modello in cui vengono messe al lavoro in maniera differenziata le persone di un sesso e dell'altro, sono ruolizzate in maniera molto precisa, molto determinata, ognuno ha un compito e sono strutturate in maniera gerarchica, per cui al maschio è stato dato un ruolo di comando, anche se non esplicito, è un ruolo di riferimento all'interno della famiglia, all'interno della società. Alla donna è stato dato, alla parte femminile è stato dato un ruolo di secondo grado, chiamiamolo così, per cui questo modello funziona se c'è questa gerarchia, e questa gerarchia è utilissima perché è un modello che nei secoli è stato usato, preso da tanti da tante strutture economiche finora, anzi è stato sussunto da tutte, perché funziona, è un modello che funziona. E infatti la cosa più pericolosa e più traviante che si possa fare è proprio appellarsi al ripristino della legalità come risposta alla violenza contro le donne. Sì, cioè, se io a seguito di una violenza, no? Per combattere questa violenza cerco di la butto sul piano legalitario e cerco di riaffermare quella legalità, io non faccio altro che riaffermare proprio la sovrastruttura, la struttura giuridica, la sanzione di quei rapporti di forza che invece si fondano proprio su questa divisione sessuale del lavoro, cioè su base sessuale del lavoro, su questa ruolizzazione, sulla supremazia del maschio sulla femmina. Quindi è diciamo la delega allo Stato della propria liberazione non soltanto è pericolosissima perché appunto l'uomo in divisa spesso e volentieri è anche attore in prima persona delle violenze sessuali e delle violenze fisiche, ma anche perché io sto delegando proprio a quella struttura che invece sul patriarcato si fonda. Impossibile appellarmi alla legalità, è proprio quella legalità che mi impone di stare in certi recinti, è proprio quella legalità che sancisce formalmente la possibilità per un maschio di appropriarsi fisicamente, mentalmente ed economicamente del corpo delle donne. E quanto sia fuorviante l'appello a una modificazione culturale, cioè non è che se una dice le cose come stanno, oppure se nelle scuole vengono fatti dei discorsi di conoscenza reciproca o di rispetto reciproco fra i sessi, non è che succede niente, non è che sono dannosi, ma non sono fondanti. Un po' ingenui anche. E sono anche un po' ingenui. Secondo me non sono ingenui nel senso che vogliono far credere che il problema sia questo. Ecco. E un riferimento storico, secondo me, che ci sta proprio, ci casca a pennello, per far capire che non è un problema di logica del possesso e di come vengono strutturate le relazioni sociali e le relazioni economiche. Da questo dipende la violenza radicata della nostra società, che prima c'era tramite l'esercizio del patriarcato, adesso c'è tramite l'esercizio del patriarcato alimentato e intrecciato con il sistema capitalistico e neoliberista. È un riferimento storico a Matilde di Canossa, che fu una nobildonna medievale che nacque nel 1076, quindi parliamo di un po' di tempo fa, e lei andava in battaglia, ha regnato 40 anni ed era peggio degli uomini quando doveva fare, nel senso esercitava il potere come peggio di un uomo, però portava avanti la stessa logica ed era una feudataria, quindi una signora feudale, quindi voglio dire esercitava il potere esattamente come esercitava il potere un uomo, questo per dire che insomma anche la regina Vittoria, esatto, anche Elisabetta prima, insomma Goglia, anche la Thatcher volendo potremmo nominare in questo splendido elenco. Certo, paragonarla a Elisabetta prima comunque mi fa un po' male, però era un'altra levatura, però vabbè. Stavo dicendo che quanto sia fuorviante poi questo appello al cambiamento culturale, lo dice per esempio un articolo che abbiamo trovato su un appello in Francia di 17 ex ministre, no? Che dicono basta molestie, ora denunciamo tutti quelli che durante il nostro lavoro dicono com'è, a parte i seni magnifici, oppure la tua gonna è troppo lunga, oppure porti il tanga, no? Tutte queste affermazioni loro dicono basta, adesso basta con le denunce, basta con le molestie, adesso li denunceremo, vogliamo rispetto, eccetera. E fra questi poi fra l'altro c'è anche Christine Lagarde, che è a capo del Fondo Monetario Internazionale. Questo che significa? Significa che queste qua vogliono riconosciuto il loro ruolo, e il fatto di non accettare più un linguaggio, degli atteggiamenti sessisti e compagnia bella, che in effetti fanno anche a loro, perché il patriarcato è da un certo punto di vista è assolutamente trasversale, però loro adesso sono nella condizione che hanno cambiato i rapporti di forza, ma all'interno della loro classe hanno cambiato i rapporti di forza. Esatto. E loro lì adesso rivendicano che se basta molestie ora li denuncio, ma non le donne tutte non sono in questa situazione. A parte che loro hanno un potere in mano che gli consente anche di cioè è facile la vita, mi viene voglia di dire, purtroppo non funziona così per chi sta più in basso nella piramide, magari funzionasse così. No, e poi a queste persone bisognerebbe ricordare che non è attraverso le denunce o la stigmatizzazione di un singolo caso che si cambiano le cose, così come non si cambia il linguaggio da un giorno all'altro. Come no, se il linguaggio è lo specchio di una è lo specchio, sono cose che si intrecciano insieme, non è con uno schiocco di dita o con una semplice denuncia o anche con denunce a ripetizioni. Se non si cambia, non si scardinano le cose alla radice, non... No, anzi, sul linguaggio è accaduta anche un'altra cosa molto interessante, cioè che effettivamente è stato fatto passare il linguaggio politicamente corretto, che adesso vuole declinare al femminile tutta la serie di titoli, no? E appunto diventa prefetta e diventa architetta e diventa la politica, l'avvocata, eccetera, eccetera. Oppure è un politicamente corretto che sanziona qualsiasi battuta, cioè una battuta magari a sfondo sessuale piuttosto che un e poi in realtà non fa altro che mascherare e legittimare chi in forza di un linguaggio politicamente corretto poi può far passare il peggio del peggio. Certo. E da questo punto di vista ricordare il movimento di Se non ora quando non fa mai male, perché ormai spero che tutte quante insomma no, siamo edotte della vera natura di quel movimento, ma al tempo, quando questo movimento uscì fuori, eravamo nel pieno anti-berlusconismo, no? E forse non ci fu frutto peggiore del berlusconismo, proprio del fronte anti-berlusconismo, in cui appunto Se non ora quando si è inserito, anzi cioè l'ha proprio cavalcato eccetera, e è riuscito come movimento a mettere insieme una serie di donne che più distanti non potrebbero essere politicamente come posizionamento all'interno sì, della dalle società fasciste alle suore. Dalle fasciste alle suore, dalle e quelle donne in virtù del politicamente corretto che appunto no, hanno in realtà fatto un'operazione molto importante, cioè molto pericolosa e fondante, hanno riaffermato una divisione tra le donne per bene e tra le donne per male, hanno cioè riproposto con forza, con una forza che ha della morale, no? Cioè proprio appunto con una tutto un impianto moralistico dietro, nel senso più becero di questo termine, e hanno reimposto un certo modello di donna, per cui il modello di donna che può competere, che può diciamo che viene visto come femminista dal femminismo di Stato, è quel modello di donna che sposa il capitale, sposa ancor prima di sposare la famiglia eccetera, certo, o comunque contemporaneamente, per cui certo, se tu sei la donna per bene che non vende il proprio corpo in nessun caso, che lo considera un tempio sacro, facendo così un passo indietro di decenni e decenni, no? Certo. Perché la sacralizzazione del corpo della donna non potrebbe essere più mortificante, perché certo, a questo punto mi espropri della possibilità di farci quello che voglio. Sacralizziamo il corpo, per cui chiunque lo venda per i fini che vuole è demonizzata, è criminalizzata, e nel frattempo appunto consacriamo anche questo modello di donna super in carriera che come primo obiettivo della sua vita ha quello di entrare nelle grazie del capitale e quindi porsi a capo, quindi all'interno di strutture di comando, aiutando tutto questo apparato patriarcal capitalistico a opprimere le altre. Questa è l'operazione che hanno fatto, e non è stato indifferente il ruolo che ha giocato proprio questo linguaggio del politicamente corretto. Certo. Beh, è una delle condizioni adesso almeno, anche perché si chiama marketing, se, cioè io lo tratto in modo molto per quello, insomma, che è. Per quello che è, non è nient'altro che marketing, è una patina per coprire quello che poi è la sostanza. Anche perché essenzialmente ormai emancipazione femminile, l'emancipazionismo non è nient'altro, ha un prerequisito di fondo: essere ricchi, fondamentalmente, cioè è un lusso quasi essere emancipato come dicono loro. A meno che tu non ti venda, cioè d'altra parte è sempre possibile la vendita personale cioè le classi al potere hanno sempre inglobato chi, anzi c'è un certo tipo di vendita che è quella dell'intellettuale o anche dell'immigrato che si propone come integrato, arrivato eccetera eccetera, e viene sfruttato per passa attraverso la conquista di uno status economico più alto, cioè nel senso c'è sempre di fondo anche perché voglio dire il sistema è talmente tanto stringente che è quasi una trappola per molti, non li giustifico, però sì, ho capito. E comunque c'è da fare, bisogna fare distinguo, perché un conto è l'utilizzo conscio di un certo tipo di linguaggio politicamente corretto, appunto, che è fatto scientemente, e un conto sono certi meccanismi che si innescano in chi appunto si vende, non sempre. Comunque venerdì c'è la manifestazione. Io manderei uno stacco musicale e ritornerei facendo le conclusioni, insomma, perfetto, le ultime riflessioni conclusive, sì, e poi lanciando i vari appuntamenti. Sì, perché abbiamo sia il nostro appello sia la parentesi. And all of the words are taken from letters from Vanzetti. Father, yes, I am a prisoner. Of strength and power. Against this is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against this is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Ed eccoci di nuovo in voce in diretta, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e stiamo parlando della violenza contro le donne. Ormai insomma la trasmissione va a finire, oggi ci prendiamo un po' di spazio in più perché la trasmissione dopo non c'è, e volevamo chiudere queste riflessioni sulla violenza contro le donne con un argomento che ci sta molto a cuore e che come femministe sentiamo un po' come una responsabilità storica del momento, che fa diciamo che corre parallela e che è indissolubile anche rispetto all'altra responsabilità storica, cioè quella di smascherare il cosiddetto femminismo di Stato, l'emancipazionismo che si sta facendo strumento di una riproposizione dei ruoli e di una non nuova ma riaffermata oppressione nei confronti delle donne tutte.

Angola, Angola, oi, força, a minha oscata mata, me encuara pra na minha cama. És convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. És convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, oi, força, a minha oscata mata, me encuara pra na minha cama. Angola, Angola, oi, força, a minha oscata mata, me encuara pra na minha cama. Angola, Angola, oi, força, a minha oscata mata, me encuara pra na minha cama. Angola, Angola, oi, força, a minha oscata mata. Nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.